2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, quella del 9 e 10 di agosto 2014. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024, scritto in cifra, 2024, @radio24.it. Potete scegliere anche di comunicare con noi tramite Facebook, le nostre pagine sul social network, le potete trovare scrivendo e cercando 2024, oppure anche Twitter. Io sono Enrico Pagliarini. In questa puntata parleremo tra poco di alcuni problemi che potrebbero esserci per chi ha servizi Hyperlan. Diciamo sempre che dobbiamo fare di tutto per diffondere la rete internet e ogni tanto qualcuno infila un bastone tra le ruote che girano lentamente della diffusione della rete internet in Italia. Questo è uno dei nostri cavalli di battaglia, ma qui si gioca una buona parte del futuro del nostro paese, del futuro dell'istruzione, delle scuole, la diffusione di internet, ma non solo la diffusione dell'infrastruttura e quindi della possibilità di accedere alla rete internet, ma anche della capacità, quindi dell'alfabetizzazione alla rete internet, è fondamentale, importante se vogliamo costruire il si dice e-government, quindi governo digitale, la pubblica amministrazione digitale, con risparmi per tutti, risparmi in termini di efficienza, non solo di soldi, di velocità, ma soprattutto se vogliamo rendere le nostre imprese davvero competitive rispetto alle altre nel mondo, non di tutto il mondo, ma insomma di buona parte del mondo dove internet è più diffuso. E poi per la vita di tutti noi, per il nostro intrattenimento, per l'informazione, eccetera, eccetera. Iniziamo questa puntata, anche questa puntata, con alcune notizie in breve, tra le più importanti che abbiamo scelto questa settimana. Digital News. Apple e Samsung hanno raggiunto un accordo per rinunciare a tutti i contenziosi tra le due società al di fuori degli Stati Uniti. I due gruppi hanno quindi posto fine alle cause legali aperte in una decina di paesi, dove Samsung è già stata condannata a pagare centinaia di milioni di dollari al concorrente statunitense, mentre proseguiranno i contenziosi in corso davanti ai tribunali americani sulle licenze dei brevetti di smartphone e tablet. Un gruppo di giovani hacker russi sarebbe in possesso di 1,2 miliardi di credenziali di utenze web, come username, password e indirizzi email. La scoperta è di Hold Security, una società americana molto quotata nel settore, che non ha ancora divulgato i nomi dei siti attaccati. Secondo la società, i pacchetti di credenziali non sono stati ancora utilizzati o venduti ad altre organizzazioni. AudiWeb ha pubblicato i dati di navigazione su internet degli utenti italiani da dispositivi mobili. Su un totale di 28,9 milioni di italiani che si sono collegati a internet almeno una volta nel mese di aprile 2014, almeno 17,2 milioni lo hanno fatto da smartphone e tablet. Nel giorno medio, l'utenza da mobile è stata di 14,8 milioni. Come vi dicevo poco fa, adesso ci occupiamo della diffusione di internet e di possibili, speriamo che non ci siano, comunque possibili problemi che potrebbero verificarsi su tutte le connessioni, e parliamo di centinaia di migliaia, le connessioni Hyperlan. Ora sapete, e alcuni dei nostri ascoltatori utilizzano questi servizi, da tempo esistono soluzioni per collegarsi ad internet senza fili. C'è chi ha un'antenna sul tetto, un'antenna sul balcone, e con quell'antenna si connette a dei trasmettitori che tendenzialmente sono su torri, in montagna, in collina, e in quel modo si può accedere alla rete internet. Per chi non ha la DSL o per chi sceglie questo servizio in alternativa alla DSL, è una buona soluzione. Questi sono servizi maturi, esistono già da tempo, coprono molte aree del nord, centro e anche sud Italia. Devo dire che negli ultimi anni si sono diffuse anche in sud Italia. Sono naturalmente una buona soluzione, un'ottima soluzione dove soprattutto non esiste la DSL, quindi parliamo di montagna, collina, zone di pianura dove la DSL ancora non arriva o non arriva con performance molto elevate, e ci sono appunto molti anche dei nostri ascoltatori che utilizzano questo sistema. Allora, gli operatori del settore sono preoccupati per alcune novità di cui si sta parlando all'interno dei palazzi dei ministeri e che potrebbero creare qualche problema. Ne parliamo con Dino Bortolotto, che è il presidente di Asso Provider, che rappresenta buona parte degli operatori che lavorano in questo settore. Bortolotto, benvenuto 2024. Buongiorno anche a voi, grazie dell'invito. Per quale motivo voi siete preoccupati per le vostre aziende, per i vostri servizi, ma naturalmente poi anche per i vostri clienti? Sì, perché siamo venuti a conoscenza che sarebbe in fase di rilascio una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Comunicazioni, che conterrebbe una interpretazione restrittiva sull'utilizzo delle frequenze libere, in particolare la frequenza dei 5 GHz, che non potrebbe più essere utilizzata per accesso da postazione fissa. Questo vorrebbe dire che, qualora questo fosse confermato, e purtroppo ne abbiamo delle evidenze oggettive, che tutti gli operatori che in questo momento stanno fornendo il servizio, praticamente tutti gli internet service provider di tipo wireless italiani, dovrebbero cessare le proprie attività o quantomeno dovrebbero cambiare le frequenze, cambio apparati, con un innalzamento sicuramente notevole dei costi per loro e purtroppo anche a caduta per i propri clienti. Quando parliamo di clienti, quante sono le persone in Italia che si connettono grazie a questi servizi wireless senza fili? Allora, da alcune nostre stime, raggiunte anche con il confronto con alcuni dei produttori degli apparati che utilizziamo, all'incirca siamo intorno al 1,5 milioni di utenti in Italia, raggiunti per mezzo della tecnologia wireless. E tra l'altro ricordiamo che questa tecnologia viene spesso utilizzata anche dalla pubblica amministrazione in zone dove effettivamente non esiste ADSL, non ci sono molte alternative. Questa è una soluzione sicuramente molto, molto interessante e molto utile. Voi dite, abbiamo evidenza di questo progetto, però non essendo ancora stato emanato nulla c'è ancora margine di discussione. Poi noi la settimana prossima sentiremo anche il Ministero e sentiremo che tipo di risposte ci potranno dare, se ce le daranno. Sì, noi speriamo, abbiamo già tentato di interloquire, siamo già stati ricevuti, ci hanno promesso che avrebbero fatto degli approfondimenti e vogliamo sperare che abbiano un ripensamento profondo. Noi ci siamo limitati a far notare che queste stesse frequenze sono utilizzate nel nostro stesso identico modo nel resto dell'Europa. E lì nessuno si è pensato di porre questo tipo di limitazione. Sì, tra l'altro. Che noi commentiamo è che non capiamo perché le interpretazioni che vengono espresse siano di tipo restrittivo invece che di procedere per un eventuale allargamento dell'utilizzo delle frequenze libere, visto il successo che hanno avuto, sia in termini di riscontro nella clientela, sia in termini di abbattimento del digital divide che si è realizzato per mezzo di queste tecnologie. Esatto, questo andrebbe contro, oltre che contro il buon senso, ma anche tutti i buoni propositi, progetti che molte pubbliche amministrazioni hanno di diffondere sempre di più internet. Ci diciamo sempre che abbiamo molto bisogno della diffusione, di diffondere maggiormente internet, e sicuramente questo non andrebbe in quella direzione. Chiediamo naturalmente chiederemo al Ministero maggiori informazioni, teniamoci informati e vedremo quali sarà lo sviluppo di questa possibilità. A presto, grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi, buon lavoro. Chissà come, ma certe cose accadono sempre d'estate quando tutti sono distratti. Comunque noi non ci siamo distratti, soprattutto Dino Bortolotto non si è distratto, anche perché qui stiamo parlando di un migliaio di aziende e